시간 어휘 chi io lei lei loro lui tu noi voi essere sono sei è siamo siete sono lavoro avvocato cuoco giornalista impiegato pianista professore signora studente nazionalità americano cinese coreano francese giapponese italiano spagnolo svizzero tedesco di è buongiorno 문형 Siete studenti? Sì, siamo studenti. Sei coreana? Sì, sono coreana. Lei è italiana? No, non sono italiana, sono coreana. Io sono Kim, sono coreano. Lui è Roberto, è italiano. Di che nazionalità è lei? Sono coreano. 대화 Buongiorno, io sono Kim, sono coreano, sono insegnante. Buongiorno, sono George Smith e sono cuoco. E lei chi è, signora? Sono Marisa Alberti e sono pianista. È italiana? Sì, sono italiana. È italiana anche la signora Mendez? No, non è italiana, lei è spagnola.